Si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, con Madalena in cave di I love you.